Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, 22:11:44 secondi, Rock Wave, l'ennesima puntata di Rock Wave, un Rock Wave piena di neve, ma Rock Wave piena di neve fa bello, fa veramente migliore in tutto. Buonasera Davide Tosches. Buonasera Maurizio. Hai fatto un buon viaggio? Ho fatto un buon viaggio, un po' al fresco. Un po' al fresco? Però va bene. Ma in treno va bene, dai. Sì, c'erano un po' di spifferi, se c'era posso lamentarmi. Cose che capitano. Sono molto contento, io devo ringraziare Alberto che ha organizzato il tutto. E sono molto contento perché se finalmente dire al molo siamo riusciti a farti venire. Bene, sono contento anch'io, ovviamente. Il disco è meraviglioso, l'abbiamo scritto nel sito, è un disco molto interessante. Io ho scritto che è un disco di folk acerbo, non so se sei d'accordo, mi è venuto in mente così, folk acerbo, cioè un folk, sì, però strano, contorto, un po' oscuro in alcuni momenti. Ma guarda, sono d'accordo sicuramente, perché tanto me l'hanno detto di tutti i colori, quindi sto scoprendo che genere faccio da quello che mi dicono le persone. Ma genere no. A 360 gradi, il tuo genere, sì. Il personale al 100%, chiaramente ci saranno i riferimenti, i punti in contatto, ma questo non vuol dire assolutamente niente, è il tuo genere, tu vai avanti per la tua strada. Sì, sì, sicuramente. La tua strada com'è iniziata, Davide? È iniziata, vabbè, musicalmente suonando il piano. E poi dopo un po' di anni ho scoperto che per me era troppo, adesso non voglio dire rigido il piano perché non è uno strumento rigido, ma per quello che volevo esprimere io e che sono le cose che ho fatto in questo disco, era, cioè il piano si presta a arrangiamenti più complessi, insomma, mentre la chitarra fa più atmosfera, almeno secondo me in questo momento della mia vita. Perché tu sei pianista, sei grafico, sei fotografo, sei un artista a 360 gradi, posso dire così? Sì, sì. Ma a tuo rischio e pericolo. Pianista, hai cominciato a suonare, cioè arrangiavi qualche pezzo di altri oppure facevi il pianista? No, io ho sempre suonato brani miei. Ah, i brani tuoi? Sì, sì, sì. Forse so fare due o tre pezzi di altri, dei milioni di brani che esistono in tutto il mondo e non me li ricordo neanche al momento, quindi... E come mai Giancarlo Onorato sulla via di Damasco è diventato un tuo fan incredibile dopo aver sentito il demo che tu avevi composto tempo fa? Ma questo non lo so, però io gliel'ho mandato con una certa sicurezza. Avevo sentito il suo ultimo album dell'epoca, che era Falene, no, che è l'ultimo, che era molto bello, ovviamente, sì. E... mi è sembrato, ho detto, ma questo qui, mannaggia, secondo me va può bene. Capire quello che posso fare pur facendo cose diverse, e così a lui è piaciuto. Ovviamente mi aveva scritto da principio dicendo cosa bisognava migliorare, cosa bisognava rifare, Quell'album che avevi inviato a Giancarlo è un album scheletrico, era un demo praticamente fatto in casa. Sì, comunque aveva già 11 tracce, era già completo, concepito come un album, poi vabbè con i suoi difetti, era un po' immaturo sicuramente, però ci sono delle cose che valgono secondo me. Cose che hai ricepito ancora, che conservi ancora, o l'hai dimenticato? No, alcuni brani dell'album li facciamo ancora dal vivo con la band o da solo, stasera ne eseguirò un paio. Bene. Mi piacciono, alcuni sì, altri invece sarebbero da rivedere sicuramente, comunque. Com'è nato questo nuovo disco? Come l'hai ricepito? Come l'hai costruito? Un po' alla volta? Oppure erano pezzi già che avevi già pronti, che per motivo diverso non erano entrati nel disco precedente? No, sono tutti brani nuovi, e sono sicuramente brani introspettivi, insomma avevo bisogno di suonare me stesso. Ecco, certo, importante senso. Questo, suonare te stesso. Mi sembrava la cosa importante. Quindi la musica è un supporto importante, per i testi sono più importanti della musica, o sbaglio in questo momento? Me era tutto insieme. Tutto insieme. Qualsiasi suono che senti nel disco, dal più distante al più presente, io cerco di dargli a tutti la stessa importanza, perché contribuiscono a creare un'atmosfera, è come un paesaggio. Non riesci a vedere in un paesaggio una cosa più importante. Certo. Decisamente. Anche la copertina è molto bella, ma poi spieghiamo della copertina in modo, la grafica, molto interessante. Apriamo la finestra. Primo pezzo che hai scelto per cominciare? Beh, direi Dove l'erba è alta. Che è il singolo. Singolo, non si dice singolo. No, non esiste. È accompagnato, singolo. In effetti. Io trovo un testo meraviglioso, con un testo molto importante. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Va bene. Rock Wave. L'onda del rock. ti addormenti fino a quando ti risvegli dal sonno nel buio profondo di piume di corvo. Sono Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Dove l'erba è alta, che la una volta si chiamava title track, si può ancora dire, no? È un viaggio introspettivo, qualcuno ha scritto, e secondo me ha scritto bene, di perché della vita in senso lato, a 360 gradi. Com'è questo discorso? Non lo so, cioè nel senso, lo so, lo l'ho scritto ovviamente di getto. Certo. Cioè nel senso, non proprio di getto, cioè, l'intuizione è venuta ovviamente, come tutte le intuizioni, al volo. Poi sì, in effetti è un viaggio cioè, che riguarda la solitudine, il senso dell'esistenza, se vogliamo, insomma, senza dire cose troppo... Certo. No, è il mio modo di vedere la vita, appunto, quello di sbagliare e continuare. Anche la musica rappresenta, posso spingermi, la solitudine in questo, dove l'erba è alba, rappresenta la musica, rappresenta la solitudine, oppure no? Musicalmente, sì, in quel pezzo là. Assolutamente, sì. Poi a me piace molto il risultato che abbiamo ottenuto col piano, sì, mi ricorda molto l'acqua. Non l'avevo previsto, ma perché in origine il piano l'avevo suonato io, poi l'ha risuonato... Meno male, Francioni. Come meno male? Perché sì, nel senso che io ho scritto la parte, okay. Ma lui l'ha assolutamente valorizzata. Quindi. Benissimo. Sì, musicalmente c'ha molti chiaroscuri, più scuri che non chiari. Non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente sì. Ma non nel senso negativo. Ecco, infatti, quello volevo precisare. Assolutamente no. Sì. All'inizio pensavo, quando ero ancora in lavorazione, che venisse una cosa più oscura. Mm. Ecco, diciamo nel senso negativo. Invece è venuta una cosa scura. Ma non molto scura. Ma non molto scura. Esattamente. Insomma, uno scuro intimo e rilassante, piacevole. E l'idea degli arrangiamenti come ti è nata, come si sviluppa? Guarda, assolutamente spontanei. Nel senso che non ho ragionato su alcun brano e sono venuti così. Bisognava trovare, l'unica difficoltà è stata trovare i suoni giusti che non disturbassero già l'equilibrio dei brani. E quindi bisogna aggiungere, ma non troppo. Sì, pensiamo a un equilibrio preciso. Non viene distorto l'equilibrio, rimane sempre una linea lunga che continua. Sì, perché io ragiono in suoni, non in note. Ah, ecco, quindi è non detto si una può cosa fare giusta, sì. Un arrangiamento su appunto dove l'erba è alta o che ne so, deserto. Non si può fare un arrangiamento classico. Certo. Deve essere un arrangiamento evocativo. Quindi tante volte se usi suoni sbagliati, cioè magari puoi anche fare un bel arrangiamento, ma non va. Cioè, vanifichi tutti gli sforzi. Quindi deve essere un minimo, o forse deve essere anche pomposo, ma deve essere quello, cioè, che un pomposo crea però sempre tra virgolette, cioè entro determinate schemi. Che tu hai voluto e che tu porti avanti. E come scrive un pezzo Davide Tosques? Come lo immagina? Scrive su un foglio di carta, su un block notes, oppure così? Sì, di solito, ecco, hai fatto gli due esempi, dove capita. Dove capita? Block notes o foglio di carta. A volte appunto nasce da un testo, più spesso nasce da suonare appunto un riff, un giro per magari anche ore. Certo. Dopo questa abitudine. Che dà i suoi frutti ogni tanto, finché non entro, diciamo, qualcuno ha scritto un mantra o diverse recensioni. Sì, non è sbagliato secondo me, io non ci avevo mai pensato prima di leggerle, però certo. È così, è una cosa continua che man mano ti suggerisce delle cose. Esattamente, benissimo. Sono le 22:24, ricordiamo lo staff, quindi Michele, mitico Michele Tosoni in regia, Roberto Baldi che ha curato le telecamere, Agostino che è il nostro fotografo, assieme a Alberto Prisco che ha curato l'organizzazione del concerto, e la nostra redazione femminile. Davide, abbiamo una redazione femminile. Non l'ho vista. La Nicoletta, e non sei via etere. La Nicoletta, la Silvia e la Patrizia che collaborano alla stesura del programma. No, pensavo che magari non ci avevo fatto caso, ma non ci sono. No, non ci sono. Ti stanno vedendo via etere. Okay. Stanno vedendo e sentendo, visto che abbiamo anche le telecamere, ti possono vedere e sentire. Andiamo un altro pezzo dal disco e poi cominciamo questa cavalcata a suonare. Cosa hai scelto come secondo pezzo per iniziare da disco sempre? Allora, dal disco abbiamo scelto il sentire. Benissimo, adesso lo sentiamo, ne discutiamo un momento e poi partiamo con la chitarra. Rock Wave, l'onda del rock. Sentire. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Un brano un po' particolare. Mentre il pezzo andava a microfoni spenti, parlavamo di deserto, parlavamo anche di linee jazzistiche appena accennate con il piano. C'è anche tua moglie nel coro. Tutte le voci femminili sono fatte da tua moglie. Sì, da lei e da Isabella Biomercati. Perfetto. Quindi come mai questo arrangiamento, non dico un po' allargato, questi input jazzistici, ma non totalmente, appena accennato. Ma questo brano che abbiamo appena sentito a me ha sempre dato un po' un'impressione un po' gospel, sarà il coro. Poi l'ho notato solo io, però non so, è un brano, non lo so, è uno dei più particolari del disco. Non saprei bene come era, anche uno di quelli più misteriosi per me, cioè nel senso da quando l'ho composto finora, ancora che lo ascolto non riesco bene a collocarlo né in un genere né in un cioè è ripetitivo però non stufa, no, non stanca la ripetizione, che però non dà fastidio praticamente. Ci sono due pezzi strumentali nel disco, come mai hai messo due pezzi strumentali? Ma perché a me piace moltissimo comunicare anche senza parole. Senza parole, esattamente. Quindi, cioè, sì, in realtà sono tre, cioè nel senso che c'è San Sebastiano Lambator, sì, che ha una voce ma non è usata come strumento. Esattamente. Sì, a me appunto piace moltissimo e anzi ho intenzione in futuro di fare delle cose esclusivamente strumentali. Vedremo adesso, sto meditando su un progetto riguardante i racconti di Buzzati, qui tengo molto, vediamo un attimo. Con la band suoni chiaramente in elettrico o suoni in acustico? Quando fai i giri, vanno alle tournée, i concerti? Sì, ci animo in elettrico, oppure se siamo in due o tre anche in acustico, dipende un po'. La band va da me da solo a sei persone, quindi dipende un po' dai soldi, dallo spazio e da tante cose. Possiamo citare i personaggi, i musicisti che hanno partecipato? Sì, finora le persone che mi hanno accompagnato sono Gabriele Girardi, la chitarra, Laura ovviamente, Laura Carè. Certo. Irene Rotondale, sempre i cori. Antonello Pippi al basso e poi adesso c'è Matteo Grosso alla batteria, che esordirà fra poco. Questo elemento in questa versione elettrica, versione acustica, sei sotto te, voce e chitarra, sì. E basta. Ah, dimenticavo, scusami, prima di Matteo c'era Leonardo Loi, suonava anche il sax. Dobbiamo ricordare una cosa, che l'autoproduzione di questo disco è di Giancarlo Onorato, però tu ci hai messo l'etichetta, la Control Records. Sì, sono uscito con la mia etichetta. Perché è una cosa molto importante uscire con la propria etichetta. Cosa dici? Sì, assolutamente, se no l'avrei fatto. non volevo condizionamenti da nessuno, non avevo paura che magari, che ne so, il mio disco rimanesse lì a prendere la polvere, chi lo sa. Ma no, penso che Giancarlo Onorato ti abbia condizionato, o no? No, lui no. Cioè, lui ha fatto solo la produzione artistica. Okay. Poi io ho deciso di farmi la mia etichetta per gestirmi il mio disco. E mi va bene così, sto ottenendo dei buoni risultati per ora, quindi va bene. Produzione artistica, cosa vuol dire? Ti ha dato delle direttive, qualcosa, sistemato certe cose che tu avevi fatto? Sì, senso abbiamo, positivo chiaramente. Ecco, praticamente il direttore artistico fa una regia. Poi vabbè, con Giancarlo abbiamo discusso molto di tante cose, per cui ci siamo conosciuti e abbiamo fatto confluire tutta questa anche amicizia nella musica, insomma. tutte le volte che mi sono trovato in difficoltà, tipo di questa cosa non sono convinto, eccetera, gli ho detto fai tu, mi fido. E quindi c'è e stato sempre un bellissimo rapporto. Insomma, beh, ha fatto anche poi da supervisore, certo, giustamente, certo, con la sua esperienza. Certamente. Stasera abbiamo anche Massimo Danieli, là, si è nascosto, ti vedono con le telecamere, ti vedono. È stato uno dei protagonisti di Rockaway alcune settimane fa. E non si sa mai, alla fine della puntata, cosa succede. Non si sa, è un mistero, un mistero. Ok, Daniele, cosa dici? Adesso facciamo un pezzo live. Va bene. Con cosa cominciamo questa? Dai, allora faccio Dove l'erba è alta. Bellissimo, che la prima la sentite da disco, adesso la sentiamo dal vivo. L'atmosfera è sempre molto interessante. Grazie. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Dove l'erba è alta. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Quando è arrivato questo disco in redazione qui in studio, in radio, è stato recensito da Luciano Marcolin, che salutiamo, il nostro recensore principe, e mi sono fermato subito a questo pezzo. Non c'è niente da fare, aveva un fascino incredibile. L'ho sentito un sacco di volte e poi l'abbiamo messo su per un mese qui a Rock Wave. Aveva veramente, era affascinante, affascinante l'introduzione. Chiaramente tu l'hai fatto in dimensione acustica, sì, ma non ha perso il fascino che aveva nel disco. Va bene, sono contento, sono sempre un po' preoccupato. No, assolutamente. Bene. È molto bello, cioè, mi sono fermato immediatamente a questa traccia. Ricordiamo che dura più di 5 minuti, non è un pezzo breve. No, certo. Perché ho notato una cosa, i tuoi pezzi non sono brevi, scuso gli strumentali, non sono brevi, hanno si allargano, hanno una complessità volutamente fatta così però. È un tuo disegno, secondo me. Sì, è la necessità di dire tutto, cioè nel senso, se ho quella suggestione, quell'ispirazione che mi porta a scrivere quel brano, devo fare, voglio fare in modo che il discorso si esaurisca, quindi... Appunto, a volte si esaurisce in 3 minuti. Certo, standard stare mesi, 3 minuti e 5, 3 minuti e 10. Alle volte ce ne vogliono 6. Certo. L'album prima, album demo, diciamo, c'era il primo brano che dura 8 minuti e qualcosa. Beh, coraggioso per iniziare con 8 minuti. Sì, è il primo brano. Proprio. Primo brano, decisamente. Quindi importante questo. Un'altra cosa che ho letto è che è stato registrato negli studi di un tuo amico, Beppe Crovella. Sì. Tastierista degli Arti e Mestieri. È un mio amico con il quale collaboro per la grafica dei suoi progetti, anche lui ha un'etichetta discografica, musicista che... Cioè, gli Arti e Mestieri è un gruppo molti conoscono, importante. E niente, sono ovviamente trovato bene, lui poi era stata la prima persona a ascoltare il mio primo demo e mi ha subito incoraggiato. Che si chiamava Stress Smog. Sì, esattamente. Di questo lo ringrazio moltissimo. Quindi ti ha dato un input, ti ha aperto una strada praticamente. Sì, sì, anche lui, sì, assolutamente. È una cosa molto interessante, molto importante. No, io in quel periodo ero molto determinato a fare qualcosa. Poi, appunto, avevi proprio deciso. Sì. Poi avendo anche appunto spinte, approvazioni da persone appunto, con più esperienza di me, insomma, tanto meglio. Ah, benissimo, il disco è molto molto interessante. Queste atmosfere un po' oscure, leggermente oscure, abbiamo detto anche prima. Ma leggermente oscure, non oscure al 100%. Il perché del leggermente oscuro? Ma perché io ho la passione sfrenata di vedere il mistero dietro alle cose semplici. E questo appunto, prima abbiamo citato Buzzati, sicuramente sì. A me piace molto lui per questo. E quindi magari appunto ci sono determinate, molte persone, direi la maggior parte, che si... esaltano, si accontentano anche o gioiscono per vedere cose, che ne so, dichiaratamente, socialmente accettate come cose liete o felici. È bello, a me piace molto guardare invece dietro questi eventi e dire cosa c'è che non è proprio così. Non è proprio così. Però non è essere pessimista, no, vuol dire, no, è solo... È scavare, trovare, cercare praticamente. Ecco, no, anche perché guardando poi dietro queste cose alle volte si trova un lato ancora più bello. Non è detto che uno trovi sempre quello più brutto. Certo. No, perché no? Però voglio vedere anche le cose da un altro punto di vista. Questo mi interessa. Ecco. Perfetto. Io proporrei un altro pezzo da disco, perché dopo potremmo fare un po' di pezzi live. Okay. Abbiamo scelto il brano numero, non mi ricordo, numero 8 forse, non lo so. Allora, numero 8, Michele dice di sì, numero 8. Ti ricordi il titolo del numero 8? Allora, dovrebbe essere La Sviolinata, mi pare. La Sviolinata, sì. Okay. Ne parliamo dopo, lo sentiamo adesso. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Thank you. Blue Radio. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. Un bel finale, io l'ho detto, un po' di world music, un po' un finale un po' particolare, un po' diverso dal solito. Come mai questa idea di questo finale? È nata così per caso o è nata perché doveva essere così? Proprio il finale, ecco, tornando al discorso che facevamo prima, io pensavo di fare uno sfumato classico. Ho detto così, sembra una roba da parrucchiere, ma non è vero. Un fade. E invece Giancarlo, ecco lì, lui ha preferito fare così, ha detto, ma boh, non sono tanto convinto, ma fai tu. E poi invece va bene, ci sta. Ci sta così, e lui ha deciso, cioè, avete sviluppato in questa maniera. Sì, sì, sono contento, infatti, è particolare. Poi ho letto che il master è stato eseguito da Greg Calvi, che è una vera autorità mondiale, con Patti Smith, Bruce Springsteen. Come mai John Harris è arrivati fino alla... Ma vabbè, non ci sono andato ovviamente, cose a distanza. Ma appunto perché dovevo fare il mastering per forza di cose, siccome lui ha fatto tanti dischi che mi piacevano, fra cui appunto Joe Harry, Bruce Cockburn. Bruce Cockburn, soprattutto Bruce Cockburn. Secondo me c'è qualcosa che collegato, nel senso, ideale a Bruce Cockburn. Tu ami particolarmente sì, Bruce Cockburn? Sì, molto, moltissimo. I primi dischi di Bruce Cockburn o gli ultimi? Ma un po' tutti, forse quelli a metà, insomma, negli anni 80. È molto famoso negli anni 80, anche qui dalle nostre parti. Poi è un po' scomparso, non che sia scomparso musicalmente parlando, non è stato più citato. Il tournée in Italia non è più venuto, raramente. Perché insomma i dischi da 15 anni a questa parte sono uno più bello dell'altro, secondo me. Esatto. È un artista serio, ecco, solido. È un artista serio. Quindi, sì. Insomma, poi l'etichetta sua personale mi pare li ha ristampati tutti quanti. Non lo so, questo comunque. Li ha ristampati tutti quanti, con sempre con qualcosa di più, però. Era un grande artista, cioè, molto amato dalle nostre parti, bisogna dire. Questo io non lo sapevo, infatti. È molto amato, c'era un movimento. Sei il secondo esperto, già che me lo dice, anche Guglielmi me l'aveva detto. Guglielmi, tanto di cappello, lui e Guglielmi. Nel nostro piccolo, noi che siamo di una certa generazione, che sono più vecchio di te, Bruce Cockburn è un musicista che era molto, non è che sia famoso, ma era molto amato da un certo circuito e veniva spesso in Italia. Ah, bene, non sono mai riuscito a vedere. Adesso un po' meno. Io ricordo un disco meraviglioso suo, che è un disco di Natale. Ma un Natale diverso, cioè un Natale fatto da lui, molto particolare, molto interessante. Beh, chiusa la parentesi, andiamo avanti. Ok, sì, quindi Bruce Cockburn, Joe Harry, musicisti molto validi, che questo produttore ha masterizzato, ha fatto il master praticamente del disco. Sì, sì, io come avrei ovviamente avuto modo di sentire, un disco molto di suoni, quindi cioè, molto, molto di, suoni, di dettaglio. E appunto, sentendo il lavoro che ha fatto lui, poi scoprendo che si poteva fare a distanza con lui, ho contattato il rappresentante italiano della Sterling, abbiamo fatto questo lavoro, gli ho spiegato un po' di cose e insomma sono rimasto veramente molto contento. È stato un bel lavoro. Differenza mostruosa dai mix al mastering, dai mix finali, cioè assolutamente vengono fuori tante sfumature che prima non c'erano praticamente, che erano nascoste, sì, assolutamente. Si sono sviluppate e quindi il lavoro è stato un buon lavoro. Sì, assolutamente, no, sono contentissimo. Ma il disco si sente bene, suona bene in tutte le tracce, proprio veramente entra immediatamente. Tanto una cosa fondamentale, non è un disco da sentire così, dobbiamo ascoltarlo attentamente, perché bisogna pesare i testi sono importanti, certo. La musica è lo stesso, ma i testi sono fondamentali secondo me, e questo andamento chiaramente. Sì, sì, ma per me è un disco, cioè insomma, non è musica da consumo, è musica per comunicare quello che io sono, quello appunto, come dicevo prima, il mio punto di vista sulle cose. Certo. E quindi per forza di cose bisogna ascoltarlo con attenzione. Quanto l'hai pensato questo disco? Quanto ci hai messo a pensarlo? Quanto tempo? Ma in realtà non avevo da principio, cioè quando siamo entrati in studio non avevo ancora la visione chiara di come doveva venire, avevo la visione del suono sicuramente. Poi man mano si sono aggiunti dei brani in studio e alcuni altri li abbiamo scartati. Hai fatto live in studio praticamente? No. O quasi? No, direi di no. Alcune cose le ho registrate anche a casa, okay. Come Deserto, o La Sviolinata, che è tutta registrata, quella che abbiamo appena sentito. Quindi man mano abbiamo assemblato, fatto lo strecco lì, e importante sicuramente la mano di Giancarlo anche. Quindi, che l'ha assemblata bene. Sì, nel senso che la scaletta poi l'ho fatta io, ma Comunque lui ha deciso i pezzi da togliere, quelli da mettere, e lì era categorico e va bene. Tipo, questo brano non la mettiamo, va benissimo. La scaletta l'hai decisa te praticamente. Sì, ascoltandolo un po' più volte. La scaletta è molto importante, un certo. Disco del genere. Io chiedo sempre ai musicisti, chi la fa la scaletta, il produttore o il musicista se stesso? Beh, dipenderà un po' dal disco, in questo caso no, sarei diventato proprio un mastino io. Ho capito. Non ce l'avrei fatta. Devo farla io. Dovevi farla te. Quelli sono i pezzi, 1, 2, 3, eccetera, fino all'undicesimo pezzo, quello avevi deciso di farlo così, benissimo. Adesso abbiamo deciso, unilateralmente, io e il regista, di farti suonare un'altra volta. Quello che vuoi, chiaramente. Allora, potremmo... La musica? Vuoi abbassarla? Sì. La abbasso, vedo. Bene adesso. Okay. Ok. Bene, possiamo fare Nell'aria. Benissimo. Che... appunto, è un brano del disco come gli altri e mi piace e quindi ve lo suono. Rock Wave, l'onda del rock. Svegliati, ora guardati, chi può aver bisogno della tua paura di essere peggiore di me. Guarda nel tuo specchio, ora vedrai un gatto, ma dov'è il leone? Dov'è finito il re? Ora puoi vedere oltre al tuo impero, siamo solo mosche nell'aria, nell'aria. Radio Veneto Rock. Ho letto fra le cose un ringraziamento speciale a Rubens. Citiamo chi è Rubens. Che non ci starà ascoltando perché, cioè, no. Spero di sì, ma non capirà molto. Esattamente. Rubens è il mio cane. Esattamente. Il tuo compagno fedele, hai scritto. Sì, sì, sì, assolutamente. È lui che mi accompagna nelle mie scorribande mattutine fra i boschi. Cosa essenziale per me è appunto fonte di ispirazione che, certo, che si sente anche nel disco. Quindi insomma, ringraziare chi mi accompagna e mi ascolta, perché io ci parlo anche, tanto siamo solo io e lui, posso dire tutte le fesserie che voglio, lui ha un sacco di pazienza. E alle volte escono anche riflessioni interessanti. Poi lui non obietta mai. È chiaro. Ma va bene, comunque. Perfetto. Un'altra cosa interessante, sempre leggendo tra le note, è che Giancarlo Lonato l'hai scoperto per mezzo degli stivali, praticamente. Diciamo che questa è una cosa bella, simpatica. Sì. Sì, ero in una sala d'attesa di un ospedale e mi sono trovato sotto gli stivali. Che stasera non ho, stranamente, ma scarpe da trekking, visto il tempo. Esatto, non volevo scivolare. Appunto, mi sono trovato questo stralcio di giornale dove c'è la recensione del suo disco. Che è molto bello, Fallene. Sì, la recensione non è, mi pare non fosse neanche particolarmente bella, però mi ha subito incuriosito, insomma, c'era... Insomma, tutta questa atmosfera di cui parlava, così il giorno dopo sono andato a comprarmi il disco. Effettivamente meritava. E quindi questo è stato l'input per l'incontro. Sì, sì, sì, ecco, se non... Diciamo, merito anche degli stivali, che hanno fatto il prigioniero. Non è una cosa da poco, merito. No, no, cavolo. È importante. Sì, Fallene io ricordo quando l'abbiamo intervistato... Lui ce l'ha mandato, abbiamo fatto un'intervista a Giancarlo Lonato, è un bel disco. È un po' di tempo che non fa un disco Giancarlo Lonato, che mi mente. Fra un po', dai. Tanto ha prodotto il tuo. Tanto ha prodotto il tuo, quindi è già molto positivo. Quindi è stato questo incontro. Poi abbiamo detto l'incontro con tuo amico che ti ha dato una mano dal punto di vista dello studio di registrazione, il musicista torinese. Quindi una serie di coincidenze positive. Sì, sì, sì, assolutamente. Sei stato un gruppo. Sì. Sì, sì, assolutamente. Un'altra persona che ricordo sempre con piacere quando ascolto il disco è Claudio Cattero, il fonico, che ha partecipato attivamente anche in qualità di creativo. È una persona molto propositiva, oltre che un bravissimo fonico. Quindi, insomma... Ecco, che importanza ha un fonico in un disco come questo? Massimo dice molto importante. Sì, sì, è molto importante. Dovrebbe essere importante in tutti i dischi. In questo, in particolare... Visto che io sono una persona che sa perfettamente il suono che vuole, sono... non mi viene la parola, direi capriccioso, no? Sono determinato. Ecco, sono determinato. Ecco, alle volte, insomma, bisogna dire alle persone, no, guarda, non va bene. Non va bene. Non va bene, rifacciamo. Mentre magari ci sono persone, soprattutto nel lavoro del fonico, che sono abituate a ragionare secondo standard, per cui la batteria si fa così, la chitarra così, mentre Claudio è stato... bravissimo a reinterpretare cose che non ha mai fatto. E quando dici rifacciamo, che espressione dai al fonico? Che espressione ha il fonico? Dici rifacciamo. Ma lui è ben contento. Mi pare a memoria che fosse ben contento. Per lui è sempre una sfida, per cui sono felice. Bene, ok, questo è positivo che sia così. 22:57, adesso noi facciamo solo un giochino. Non te l'ho detto prima. Ah, a tradimento, così? Sì. Un giochino. Massimo lo conosce. I 5 dischi da portare su un'isola deserta. Ah, ok. Non pensavo fosse una cosa grave. No, sono cose sempre musicali. Assolutamente lontani da certe cose. Da certi stereotipi. No. 5 dischi, 5 CD. Quello che vuoi. Da portare su un'isola deserta. A tuo piacimento. Dai, facciamo 50. 50. Potremmo andare fino a 50. Oltre a mezzanotte non possiamo andare qui. Mannaggia, mi metti proprio... Allora, sull'isola deserta ovviamente con un lettore CD. Con lettore CD, sicuramente. Se no prendevo 5 a caso. Chiaro. Allora, andiamo quasi per artisti, poi scelgo. Vabbè, sicuramente uno di Alice Cooper. Tu hai citato Alice Cooper fino a un certo periodo della sua carriera, sì. Poi l'hai dimenticato. Sì. È stato dimenticato da molti dopo. Ma paradossalmente ha venduto più dischi ancora, sì, però con cose meno di valore, mentre le cose fino al 76 secondo me sono strepitose. Quindi Alice Cooper, che di recente è venuto anche in Italia, mi pare. Sì, ma viene abbastanza spesso. Non sono mai andato a vederlo perché non voglio rovinarmi il ricordo. Ah, forse. Ho capito, vuole rimanere come era una volta. Quindi Alice Cooper. Di Alice Cooper che disco? Ma mettiamo Welcome to My Nightmare, sì, via. Va bene. Ok. Poi... Non so se è mica Alice Cooper, detto io. So, è colpa mia, sì. Poi possiamo mettere Smog. Gli Smog, sì. Smog, Red Apple Falls. Il rock è un sinonimo di tante cose. Infatti anche scegliere un disco è un po' difficile, vero? È difficile. Poi possiamo mettere ancora, vabbè, uno di Tom Waits, che facciamo? Non ce lo portiamo? No, quello Tom Waits, assolutamente. Cosa di Tom Waits? È difficile. Rain Dogs, Blue Valentine, poi. Troppi, ce n'è anche lì. Ce ne sono tanti, Ma facciamo, aspetta, su un'isola, magari uno altro. La notte però non ci sono luci, non so, ma pensavo a Art of Saturday Night. Potrebbe andare quello, dai. Sì, portiamo quello, dai. Portiamo con quello. Un bel sigaro magari, se riusciamo anche. Esatto. Quello ci sta. Poi ne mancano due. Ne mancano due, sì. Cosa si vince? Ah, niente, si vince. Una continua, un'altra suonata si vince. Ok. Portiamoci anche via una raccolta di Piero Ciampi. Si può stare senza, sì. No? No. Assolutamente no, visto che adesso c'è solo la raccolta a disposizione, i dischi non li hanno ristampati o dovrebbero ristamparli, vedremo, insomma, c'è solo la raccolta di Piero Ciampi. E poi qua chissà cosa possiamo mettere. Questo è Tom Waits, bravo Michele. Tra l'altro ok, non riuscivo a capire che brano è. Ok, l'ho capito. C'è scritto. Ah, ok. How Can Never Hold Back. Bello, no? Mi piace moltissimo. Tom Waits è un artista. Uno degli ultimi brani significativi, secondo me. Ha avuto successo molto in Italia recentemente. Il disco suo ha venduto parecchie copie, ne ha vendute. Stranamente, con l'etichetta nuova, con l'etichetta particolare, l'Epitaph, mi pare. A 50.000, 60.000 copie in Italia. Ha fatto un buon successo. Allora, comunque, volevamo finire con questo ultimo disco. Allora, aspetta, quello che vuoi. Che scartabello nel jukebox. Perfetto. te ne prendiamo uno a caso, perché non ce la farò mai. È troppo difficile. Qualcosa che mi manca. Vabbè, uno di John Henry non lo portiamo. Quello di John Henry, sì, quello non ce l'hai mica, però. John Henry non ce l'hai mica. Ce l'hai. È un po' più difficile. È un musicista. Disco nuovo è bello, però non è bello come i precedenti. Secondo me no. Però, insomma. Però ha fatto tante cose. Un po' troppo votato al jazz questo. Esattamente. Ha fatto tante cose belle, però bisogna dire. Via, di John Henry portiamo o Shuffle Town o Fuse. Io preferisco Shuffle. Fai tu, ok, dai, va bene. Io l'avevo in vinile, ricordo. Che l'avevo in vinile. È una cosa straordinaria. E ricordo che il primo disco di John Henry, stampato in vinile, poi lui l'ha rinnegato totalmente. Io ce l'ho a casa. L'ha rinnegato totalmente perché secondo lui non andava stampato, non era un disco che doveva essere pubblicato. L'ha completamente rinnegato. Infortunati, mi annovero fra quelli che l'hanno in vinile, sono contenti. Ok, questo era John Henry. Benissimo, abbiamo concluso. Adesso io proporrei, anche Massimo è d'accordo, un'altra suonata. Bene. Vorrei solo far vedere ai nostri ascoltatori che ci vedono attraverso le telecamere la bellezza di questa chitarra. Dai una piccola descrizione, Daniele, di questa chitarra. È una chitarra National Reso Electric Junior, è un ibrido fra appunto una resofonica e un'elettrica. Non la producono più. mi dicevi, non la producono più, e quindi un pezzo abbastanza raro. Sì, abbastanza, in Italia sì. È molto particolare, nel disco l'ho usata in un solo brano, nonostante tutto, che è La tua stella. E appunto, chitarra per tutte le occasioni. Quando non sai che chitarra portare, prendi questa e sei a posto. E sei a posto, dovunque. Perfetto. Ok. Cosa ci fai sentire adesso? Allora, possiamo far sentire anche fuori del disco, come vuoi te, a tuo piacimento. Magari possiamo provare La tua stella. Proviamo La tua stella. Visto che ho detto la chitarra. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Giorni morire bello il tuo desiderio. Sono le 23 e 5 minuti. Blu Radio. Rock Wave. Infatti sto bravo. L'onda del rock. Ci siamo? Hop. Perfetto, ci siamo, ci siamo. Benissimo. Allora, vorrei chiederti una cosa. Tu mi pare hai detto in una dichiarazione che non hai cominciato a fare tanti spettacoli live. Leggermente adesso cominci, però... Eri un po' restio, un po' non so per qual motivo. Ma io ci tengo a fare degli spettacoli live prima in posti che mi piacciono. E quello è fondamentale. Okay. E infatti sono qui stasera. Io ti ringrazio. No, ringraziamo la relazione di Rock Wave. Poi con persone che ascoltano possibilmente. Cioè voglio dire, occasioni di fare date ce ne sono molte. Mm. Però chi suona sa che... Insomma, è parecchio faticoso portarsi strumenti in giro, magari appunto puoi suonare in posti dove la gente non ti ascolta. È brutto, assolutamente. Non solo non è gratificante, no. È anche inutile. Per è cui... brutto. Proprio... Quindi meglio pochi ma buoni. Esattamente, meglio pochi buoni. Cioè, puoi scegliere, riesci a scegliere. Sì, sì, ma meglio fare un concerto davanti a tre persone che ti ascoltano rispetto a 300 che ne so, fanno l'aperitivo... Capita spesso così. E purtroppo c'è solito il discorso che la gente, non la gente, hanno portato il sistema che bisogna fare le cover, ma non è mica vero che bisogna fare le cover. La gente può fare le cose proprie, assolutamente proprie. Ma anche perché le cover, a parte che il discorso... Poi le cover sono sempre toccato le un discorso che mi Dai, dimmi, fa dimmi. Arrabbiare. Siamo qua per parlarne anche di questo, è importante. Vabbè, no, nel tra senso Liga, che, vabbè. Tra Liga Bue e Vasco siamo sempre là. Eh sì, No, ma il fatto che la cover non serve a niente, cioè serve se tu stravolgi, che ne so, un brano, fai veramente, lo interpreti a tua maniera, allora ha un senso. Prima di andare in onda ascoltavamo My Way dei Sex Pistols. Certo. Ha un senso. Sì. No, chiama Frank Sinatra come me, potrebbe dire, mannaggia, infatti quella di Sex Pistols non l'ascolto mai, ma ha un senso. Quindi va bene. Andare a riproporre le cose uguali non ha alcun significato. Una volta si usava così, però negli anni 60. C'era chi li proponeva uguali al 100%. Cambiava solo il testo, perché chiaramente era in italiano, non poteva... Ah, sì, sì, ma tu intendi proprio incidere i brani. Sì, no, intendo le cover, però, insomma, fatte nei locali. Voglio dire, tanto non sarai mai come, che ne so, boh, Mark Knopfler, o non sarai mai come Joe Cocker. A parte, no. Tribute band di Joe Cocker non ho visto. No, non ho visto, non ho mica sentite tanto. Facciamo una qualcuna. Noi. Okay, no, mi dicevo, a proposito di riproporre le cover, sempre a microfoni spenti, prima di iniziare la trasmissione parlavamo del disco di Peter Gabriel, che ha riproposto le cover, ma le ha reinventate. Quello ha un senso, secondo sì, me. Sì, assolutamente. E poi tutte cover di musicisti non assolutamente famosi. Sì. Sì, ma infatti... Mike Field, per esempio, non so... L'unico famoso era David Bowie, che non l'ha fatto tanto bene, a mio parere. A mio ma parere. Secondo me Peter Gabriel ha avuto la sfortuna, nel senso che... persone come me in questo ultimo anno sono usciti 8 milioni di dischi di cover di artisti famosi e lui ci è capitato in mezzo e ha fatto male, secondo me doveva aspettare un po' di più, forse poteva far distinguere. Perché secondo te sono usciti questi dischi di cover? C'è la mancanza di stimoli? C'è qualcosa che manca? No, credo che semplicemente che gli artisti più famosi non abbiano voglia di rischiare. Ah, ho capito. E quindi andiamo sul sicuro, tanto il nome ce l'ho, i brani che riproporrò sono belli e tu fai un disco che fa schifo. È così. E quindi il coraggio di proporre sì le cover ma rifatte come Peter Gabriel non esiste, non c'è. Peter Gabriel è un altro mondo, forse, anche se chiaramente non tutto è bello, però no, certo, però sì, secondo me ha avuto solo la sfortuna di far uscire questo disco, l'ha fatto, perché erano tanti anni dove far uscire un disco, invece di fare un disco di inediti ha fatto dischi inediti tra virgolette, ha fatto le cover, è andata così. Vabbè era Peter Gabriel qui. Io proporrei, non so se sei d'accordo, un pezzo dal disco. Facciamo un altro pezzo da disco, cosa dici? Possiamo mettere nell'ombra, che dici? Che la traccia è, ti ricordi? L'ultima, la traccia numero 11. Allora. Sì, adesso aspettiamo un secondo, ricordiamo che stiamo ascoltando Rock Wave, stasera abbiamo Davide Tosques, si pronuncia così, sì, vero? Giusto? Scusami, la pronuncia. No, no, figurati, tanto lo sbagliano tutti. Lo sbagliano tutti, perfetto, non sono l'unico. No, no, ma tu l'hai fatto giusto, appunto. L'hai detto giusto. No, dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori prima, ma ha detto come si doveva pronunciare. Quindi, giustamente. Sentiamo la traccia numero 11, la traccia finale del disco, e poi ne parliamo, perché è una traccia un po' particolare, ok? Bene. Rock Wave, l'onda del rock. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, 23:14 e 51 secondi, sempre Rock Wave con Davide Tosques stasera, live, chiaramente live. Abbiamo sentito l'ultimo pezzo, Davide, del tuo disco. È un pezzo particolare che, come avevamo detto a microfoni spenti io e te, assieme a Massimo, abbiamo parlato anche con Massimo, comincia leggermente, poi si amplia sempre di più. Poi c'è il finale con Giancarlo Onorato che suona le tastiere, e c'è la signora, la moglie di Giancarlo Onorato che canta dentro. La fidanzata. La fidanzata, sì. Pardon. È uguale. È uguale, la stessa cosa. Dai, cosa cambia? Cioè, ha dato il tocco finale anche lui. Volutamente tu hai detto sì. Vai avanti, finisci così. Sì, sì, a me piaceva l'idea che lo finisse lui, perché mi ricordo poi mentre eravamo in studio, lui che suonava l'organo e continuava. Ha detto, ma bello, finire bello. Un disco così, sì, sì, mettiamo alla fine. Sì, è onirico, cioè, evocativo, possiamo dire questo, se sei sì, d'accordo. Sì, sì. È un bel finale, cioè, deve chiudere il cerchio. Il tuo disco ha determinati chiari oscuri, volutamente, perché tu l'hai impostato così. Lui l'ha finito così, perché andava finito così, probabilmente. Tu eri d'accordo, è andato in questa maniera, insomma. Sì, lascia un po' in sospeso. Diverse persone mi hanno detto questo finale qua non hanno soddisfatto. Non mi soddisfa, devo riascoltarmi il disco. Bene, allora vuol dire che è un modo come un altro per riprendere tutto il discorso. Sì, sì, no, sono contento. Quindi. Ma anche a me fa lo stesso effetto. Dico, mannaggia, questo organo che finisce, quasi quasi me lo riascolto da capo. Così poi quando arriviamo alla fine vediamo se capiamo o non capiamo di nuovo. Quindi dobbiamo risentirlo un'altra volta. No, è una cosa positiva. Cioè, il produttore ha voluto, no, produttore, un amico più che il produttore, secondo me, in questo momento. Sì, sì, sì, adesso sì, assolutamente. Cioè, non c'erano lui era il produttore, tu eri l'artista, no? No. Ma, giusto le prime due settimane, cioè, per dire, siamo entrati poi subito in sintonia. Tutto dopo. Sì, ma neanche tanto, voglio dire, cioè nel senso, neanche tanta rigidità nelle prime due. Cioè, è giusto il tempo di conoscersi, certo. Ma eravamo già intesi, voglio dire. Quindi. Immediatamente. Sì, se sì. Lui si è deciso di produrre il tuo disco, vuol dire che ha visto in te qualcosa di decisamente positivo. Ed era giusto che sia certo, così. Sì, sì. Benissimo. Beh, cosa dici? Sì, 23:17, suoniamo ancora qualche pezzo, un altro pezzo. Suoniamo ancora un brano? Ma sì, dai. Dai, suoniamo un altro pezzo. Dai. Siamo qua apposta. Appunto. Però qui è più che altro uno spettacolo dal vivo. Poi le mie chiacchiere, sai, sono solo il contorno dello spettacolo. Cosa facciamo? Va. Guarda, proviamo a fare deserto, vediamo un po'. Facciamo deserto, adesso mettiamo da solo a posto. È un po' il capotasso, lo metti a posto. È un po' arduo, ma possiamo provare. Proviamo. Siamo qua. Proviamo. Rock Wave. L'onda del rock. Forse Osta, forse Monza, forse Firenze. forse Napoli, forse Ravenna, forse il deserto. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, questo pezzo mi ricordava quella band che ha prima citato Alberto, i Thin White Rope. Ha queste atmosfere da folk acerbo. Quello, mi ricorda quello. Questo è un bel pezzo che sceglieremo poi nelle prossime puntate di Rock Wave, non solo acustico, metteremo questo pezzo qua, Deserto. Tu hai detto una cosa molto interessante, ne abbiamo parlato prima della trasmissione, però adesso la possiamo ampliare. Grazie ai Beatles, a Beethoven e a Chuck Berry e a tutti gli altri per averci emozionato e guidato verso territori inesplorati o quasi, ma oggi siamo nel 2010 e dobbiamo valorizzare e valorizzare il presente. Sgt. Pepper è stato, ma adesso il Sgt. Pepper è andato. Certo. Allora, ampliamo il discorso. No, Sgt. Pepper come Johnny B. Goode, come un sacco di altre cose, ce n'è tante. Certamente. Vanno presi, valorizzati, appunto, messi nel museo della musica. Bisogna andare avanti. Sì, ma è giusto che stiano lì. Sì. Ma certo. Non vuol dire, questo vuol dire dargli un valore, e il valore che hanno, riconoscere il valore che hanno. Quindi se mettiamo i pezzi da museo in giro, non si capisce più niente, ed è quello che sta succedendo adesso. Ho capito. Cioè, voglio dire. Quindi, d'accordo anche Massimo, d'accordo. Vuoi intervenire anche te, Massimo? Vuoi dire qualcosa? Lì, intervieni, diamine, dai. Numero 6, tu, microfono. No. Un secondo solo. Sì, parlavamo dei musei della musica. Cioè, Sgt. Pepper è stato, qualcuno dice è stato la Bibbia del rock, ma tu non sei mettere d'accordo. È stato un grande disco, questo sì. Sì, per carità, come tanti altri. Però è giusto che stiano appunto nel museo della, se no cosa ci mettiamo in questo museo della musica? O non lo apriamo proprio? Certo. Però se lo apriamo ci vuole, è necessario metterci dei dischi. Bisogna andare avanti, quindi non fermarsi. Però fuori dal museo ci va la musica di oggi. Ho perché capito. C'è tanta musica di valore. Certo, tu sei d'accordo? È questo che è a monte, secondo me, del ragionamento. Cioè, i Beatles, Jimi Hendrix, sono intoccabili, no? Sono stati geniali perché hanno cambiato il modo che le persone avevano di intendere determinate cose, no? Anche se magari molti dicono hanno inventato qualcosa, anche se non avessero inventato niente, comunque hanno cambiato il mondo della musica. Però adesso è importante, infatti. È fermo, no? Il mondo adesso è stagnante, è stagno, ma come dice lui c'è tantissimo talento in giro. Ci sono tantissime persone che hanno voglia di dire, l'esigenza di dire anche tante cose. E alcune magari non saranno geniali come Jimi Hendrix, come lo è stato Jimi Hendrix, però non gli viene data nessuna possibilità. Sì, no, vabbè, secondo me è un po' questo, no, il ragionamento alla base. Certo, no, ma secondo me poi c'è stato sicuramente, i Beatles avevano a disposizione un impianto mediatico che enorme. Non si è mai più ripetuto, enorme. Questo bisogna considerare. Certamente. Era un impianto mediatico che era lì in attesa di qualcuno, loro sono anche arrivati in quel momento. So che tanti miei amici non saranno d'accordo su queste cose, quindi quando andrò a casa, ma cosa hai detto? No, i Beatles non si toccano, ti ammazzo. Ma tu non hai toccato i Beatles? Ma io no, come faccio a toccare i Beatles? Tra l'altro, Due sono morti, come faccio a toccarli? Esattamente. Uno suona la batteria quando vuole. Suona la batteria quando vuole. E l'altro suona dappertutto. Infatti. Quando verrà Paul McCartney, magari lo tocco, non lo so. Non in zona intima. Chiaramente. non stai toccando i Beatles. I Beatles no. Sono stati, chiaramente. Bisogna però, bisogna andare avanti, bisogna progredire. Non bisogna... Cioè, è difficile però. È molto difficile. O no, secondo te? È difficile dimenticare. Ma no, perché secondo me... prima le persone, poi sicuramente anche la stampa specializzata o gli addetti al settore sono spaventati. Ho capito. Sono spaventati dal tirare fuori altre, cioè da toccare, appunto, da toccare i Beatles. Tipo, cosa facciamo? Non trasmettiamo più i Beatles? Oppure non ci sarà mai più nessun chitarrista come Jimi Hendrix? A parte che non è vero. Cioè, con quelle caratteristiche lì, no. E beh, certo, era unico. Va è bene. Chiaro, era unico. Quindi... però ce ne sono tanti altri, sì, unici che... certamente. Cioè, voglio dire, poi spesse volte la gente confonde la musica col personaggio. La musica è una cosa, secondo me il personaggio è un altro, è un po' diverso. Insomma, non sì. Posso guadagnare posizioni nella storia della musica, che ne so, perché mi vesto in quel modo lì o eccedo con i miei vizi o no, devi essere musicista. No. Sentiamo il valore di quello che fai, poi puoi fare. Beh, chiaramente nessuno mette in dubbio il valore di Hendrix, però il modo di... A proposito di Hendrix, adesso uscirà un nuovo disco, un ennesimo nuovo disco di Hendrix. Di inediti, che non si capisce con quale software li stanno generando. Ma quanti dischi di inediti aveva Hendrix? Non lo so. Sì, probabilmente ne aveva tanti, però è il modo di fare che è un po' strano. Beh, c'è da dire che fra i dischi che ho sentito io di inediti di Hendrix sono delle robe inascoltabili. Inascoltabili? Sì. Sono proprio... Ma il marchio conta, è sempre là. È quello che conta, il marchio. Poi a volte mi chiedo, ma forse erano veramente di Hendrix questi dischi? Oppure non erano di Hendrix? Oppure erano di, che ne so, di qualcuno che poi hanno scritto Hendrix perché dovevano essere. Ma è possibile che ogni anno escono 6 dischi di inediti? Ma quanti ne ha? Quanti ne ha? È una cosa incredibile. Non lo so, beh. Comunque. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi, però la situazione è questa qua. Quindi bisogna andare avanti, non bisogna mai fermarsi. Bisogna cercare di costruire qualcosa di nuovo. Chiaramente nel limite delle possibilità. Ma le possibilità ci sono. Basta avere i mezzi, basta avere anche certuno che hanno i mezzi, basta avere la possibilità di dare la possibilità, quello è importante. Sì, certo. Perché non si deve dare la possibilità agli artisti emergenti come voi? Perché no? No, non c'è, perché? Beh, noi, io e Massimo, ce la stiamo dando da soli. Certo. Va bene, certo. No? Avete fatto un bel percorso, un percorso intelligente, però mica tutti hanno questo percorso. Sai che c'è una cosa che diceva, che ha detto Mauro Pagani in un'intervista che ho visto, che ha fatto Danno Zero, l'ho beccata su YouTube, e lui ha detto questa immagine, secondo me, che è bellissima. I media, comunque, diciamo, la grande distribuzione di massa, che è l'unica che viene ascoltata nonché percepita, diciamo, è come se fosse, no, un enorme setaccio che ha dei buchi quadrati. Ah, ho capito. Quindi tu setacci, tutto quello che esce deve avere per forza la forma quadrata. Se una cosa ha una forma diversa, non passa. Non passa, sì. Però tutto quello che non passa rimane nel limbo. Io preferisco magari rimanere nel limbo, come diceva Davide, però quelle tre persone che vengono a vedere io, che sono nel limbo, suonare, a vedere me, magari... poi magari non gli piace, pigliano e se ne vanno. Ok, è libero arbitrio, cioè il gusto è giusto, però almeno preferisco che ci sia la sincerità. E anche per quello sono d'accordo con quello che dicevi prima, che bisogna stare attenti al personaggio, alle cose, però è il sistema che ti porta a essere un po' così. Io ho visto tanti puri o semi puri, insomma, rovinati perché bisognava raggiungere dei compromessi, purtroppo. Perché poi a un certo punto, se uno comunque ci può vivere, diciamocelo, cioè, chi è che non vorrebbe fare questa cosa? Sì, il musicista, cioè fare le proprie canzoni, vivere con la propria musica, è una cosa stupenda, con tutti i contro che molti ignorano che c'è dietro. A proposito di però... questo, Ray Tarantino, che è venuto qua a suonare lunedì, ha detto, quando fanno questa domanda, cosa fai? Musicista. Cosa, in Italia, musicista, cosa vuol dire? Cos'è poi, fare il musicista? E poi cosa fa? Malattia. È una malattia. Cosa fa? Vuol dire essere musicista? In Italia è così. All'estero no. In Italia è così. C'è niente. Sì. Ok, cosa dici? Facciamo sentire un pezzo da disco se vuoi te, oppure suoni un altro pezzo? Ma facciamo lanciando i dadi. Lo suoni o lo suono? Io voto perché suoni. Vabbè. Facciamo suonare. 23:30 e 51 secondi. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, allora suona un brano dal disco vecchio. Si chiama San Sebastiano Blues. Ascoltando il vento sulla collina, ho sentito lamenti di mucche lontane e ho visto panni stesi muoversi come ali mentre un aeroplano volava nel stare sulla collina, ascoltando il vento fino al mattino. Mentre la notte diventa più scura, Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, questo era un pezzo dall'album, dall'EP che avete, sì, che avete 11 pezzi che avevi registrato in casa. Pezzo stringato, ma non propriamente tanto lontano dai pezzi che hai fatto. No, adesso, infatti, è uno dei due che ripropongo dal vivo. Ecco, vedi, è quindi una cosa interessante, positiva. Anzi, ce ne sarebbe ancora un terzo. Però non l'abbiamo ancora provato. Ah. Che è un po' diverso. Però è l'intenzione di farlo anche quello. Sì. Sì, sì, proprio perché stacca un po'. Questo lo fai sempre con la band, chiaramente. Sì. Non sì, da solo. Da solo è un po' più complicato quel brano lì. No, parlavo di questo che hai eseguito. Ah, questo sì, lo faccio sia da solo che con la band. Ah, ho capito. Com'è complicato? Tecnicamente perché? Perché ha delle sonorità un po' particolari, eccetera. Quello ah, che l'altro. Volevi... Esattamente. No, ha delle parti un po' difficili proprio da suonare, quindi non avendolo ancora provato. Ah, qualcuno ha scritto che tu sei sempre, tra virgolette, sì? Nick Drake o Robert Wyatt meno difficile. Sei d'accordo su questo? Ma guarda, Robert Wyatt l'ho scoperto dopo aver letto questa cosa. E cosa ne pensi dei Soft Machine? Se hai sentito Soft Machine non li ho ancora ascoltati. Allora, Robert Wyatt da solista e basta. Okay. Ma ci sono delle cose interessanti, sicuramente molto interessanti. Forse ho ascoltato solo Comic Opera, che è l'ultimo, se non sbaglio. Certo. Mi piace, ma lo trovo un po' discontinuo, forse troppo lungo. E Nick Drake? L'album. Nick Drake, guarda, lo conosco poco. Ho l'album che hanno tutti. Ho Pink Moon praticamente. Gli altri due non li conosci. No, non l'ho mai ascoltati. Ma non mi piace particolarmente. Sai cosa, c'è una cosa da dire di Nick Drake? Ma Massimo lo sa, ne abbiamo già parlato quando è venuto qui. Ha una difficoltà enorme a fare i suoi pezzi. Enorme. E sembrano molto semplici. Non è assolutamente vero. Molto difficili, molto complessi. Perché lui inventava delle accordature speciali che nessuno aveva. Sì, ma credo perché non fosse capace a suonare, in realtà, come molti che trovavano queste soluzioni originali. Cioè, capace a suonare nel senso classico, ha bisogno di trovare le sue soluzioni. Trovare delle soluzioni molto complicate, molto complesse. Sì, sì. Quindi non era capace di suonare, praticamente. Sì, no, nel senso negativo. Quello, no, molta gente, ecco, lì si apriamo un altro argomento. Apriamo, gli argomenti bisogna aprirli. Dai. No, forza. Appunto, suonare. Poi mi sono interrogato per anni su cosa vuol dire saper suonare. E poi in realtà basta il significato della parola, mettere suoni. Mi basta. A te basta. A me basta, io faccio quello. E faccio dei suoni che insieme stanno bene, che comunicano qualcosa. Cavoli, e allora suonare. Qualcun altro ne pensa diverso allora. Sì, quasi tutti pensano saper suonare, che ne so, eseguire delle partiture, no? Giocare con lo strumento. Sì, fare i virtuosi. Fare i virtuosi. O anche solo saper leggere uno spartito e suonarlo. Sì, e suonare anche quello. Si emettono sempre dei suoni, per carità. Ma eseguire quello più che suonare. Però eseguire, sì, non lo so. E questo è il grande discorso, cioè, perché tu hai detto giustamente, questo è suonare, basta. Dopo fare il virtuoso è un'altra cosa. Sì, no, vabbè, poi fare il virtuoso è proprio un'altra cosa ancora, nel senso che lì è come l'acrobata al circo o il pappagallo che va sulla bicicletta. Non so, a cosa serve? Non serve a niente. Questo è la velocità di giocare con la chitarra. Sì, però diventa uno spettacolo, cioè non è musica, no, è un'esibizione, al circo va bene, ma no, senza offendere nessuno, no, per dire, io non riesco a suonare, assolutamente, senza non sono proprio in grado, ma senza offendere nessuno. Io tempo fa ero andato a vedere Zawinul, forse l'ultimo concerto che ho fatto in Italia, ero appunto andato con Beppe Crovella, gli strumentisti incredibili, straordinari, i brani alcuni non mi dispiacevano non conoscendoli. Però c'erano un paio di cose che veramente insopportabili. Sì, tipo l'assolo del bassista non finiva più. E l'assolo del tamburellista, non del batterista. Del tu non puoi immaginare cosa può fare un cristiano o musulmano, quello che era, quello non che ricordo, era con un tamburello. Tamburello. Quello era una roba, cioè al circo quel numero lì io andrei tutte le sere a vederlo, era strepitoso, ma però purtroppo con la musica. Poi per carità andava a tempo e suonava bene, sì, erano i brani, però non aveva tanta apparenza. No, no, guarda, darei qualsiasi cosa per rivederlo, veramente. Però appunto è un'altra concezione esula. È musica. Un po' più avanti. Cioè, esula da questo. Io proporrei una cosa, visto che a me Deserto fatto dal vivo mi è piaciuto molto, lo vorrei sentire da disco, non so se sei d'accordo. Ah, come no? E mi ricordo la traccia. E il numero, sai, ti ricordi? La numero 10 mi pare. Dovrebbe essere la numero 10, sì. Perfetto, la numero 10. Hai una buona questa era una domanda difficilissima. Lo so. Purtroppo, sai, qualche volta i numeri li mettono nelle copertine dei dischi, qualche volta no. Ma il grafico ha fatto un lavoro pessimo. No, ha fatto un bel lavoro il grafico. Il grafico sei te. Appunto. Ok, allora sentiamo Deserto dal disco, che è un grande pezzo, secondo me. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. spietata luce del tramonto. Forse Praga, forse Torino, forse il paradiso. Forse osta, Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Mentre hanno immortalato il nostro regista, mi pare giusto, l'hanno fotografato, vero Michele? Ok. E una cosa ho notato in questo pezzo, proprio desertico, bello, selvaggio, questo suono che rimbalza da una cuffia all'altra, da un orecchio all'altro, scusate. Molto bello, molto significativo, molto anni 60, se mi è consentito. Oh, come no? E poi la chitarra elettrica e la suonavità. Sì, dentro, sì, sì. Questo finale, dilatato, bello, trasgressivo, psichedelico, saprei grazie dire. A me è piaciuto così e quindi mi ricorda sempre i famosi Teen White Room che ti sentirai domani assolutamente ascoltare, a vedere, a sentire, vedrai che c'è qualcosa, chiaramente tra virgolette visto da me e anche da Alberto, che siamo in concomitanza con queste robe, però c'è qualcosa secondo me, molto, ma c'è qualcosa, ci sono ancora due pezzi da suonare, quello è importante. 23:47, ricordiamo Rock Wave con Davide Tosques, che stasera è venuto qua da noi, che ha fatto un lungo viaggio, ma è un viaggio positivo, dai, è venuto a suonare. Rock Wave, un programma che viene da ogni mercoledì, è sempre dal vivo, in diretta, c'è un nostro sito, Rockway, diretta rockway.altrevista.org, ci potete vedere e sentire, con sempre il mitico Michele Toso in regia. È vero Michele? È un po' così, sì, è vero. Ok Davide, cosa ci fai sentire adesso? Prima la pre-conclusione, la propria conclusione. Vai, andiamo col rischio, proviamo case, che anche questo da solo... Non l'hai mai provato, l'hai trovato poco. No, l'ho provato, sì, perché ovviamente l'ho scritta da solo, ma l'ho suonata da solo. Ma qua c'è un sacco di belle cose, insomma, di cui dovrò fare a meno stasera. Ma rischiamo lo stesso. Ma sì, dai, ma tanto sì, siamo qua ormai, rischiamo. Siamo in ballo. Sì, siamo in ballo, dai. Va bene. Case di altri esseri umani, piccole luci sulle colline, fuori dal tempo, dentro al silenzio, per riposare dove l'aria è fresca. Immaginare suoni e parole, televisori, polvere e sospiri. Ora pensieri di quiete mistero nel buio. Chiudere gli occhi, desiderare di essere vento. Strade, alberi e ombre, oltre alla mia casa. Per arrivare fino alle case, guardare la luce della mia finestra. Di quiete mistero. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. Abbiamo sentito questo nuovo pezzo, nuovo per la trasmissione, chiaramente. E poi concluderemo in bellezza. Hai qualche tournée, qualche data da ricordare, Davide? Ma adesso, vabbè, la prossima sarà a Torino. Torino? Al Circolo Sud. Benissimo. Con la band o da solo? Siamo in quattro, sì. Band, quasi band. Insomma. Beh, quasi manca il bassista. Esattamente. Va bene, comunque band, sì. Elettrica, proprio elettrica? Pesante, nel senso positivo del termine? In che senso? Cioè, un suono composto, un suono per il concerto, forte, intendi? Esattamente, sì. No, userò questa chitarra, la National. E poi ci sarà Gabriele Girardi con la chitarra elettrica, percussioni e Laura Carrera alla voce insieme a me. Benissimo. Dobbiamo ricordare l'etichetta la tua, la Control Records. Control Records. Dove si può trovare il tuo disco? Su internet? Può trovare su iTunes, poi si può trovare su CD fisico da ordinare, si può ordinare alla Fnac, CD Baby, BS, insomma. Tanti sistemi. Diciamo dove classicamente si comprano i dischi, chiaramente. Ricordiamo anche il tuo sito. Il mio sito è davidetosches.com. Dove si può trovare dentro il tuo sito? Tutte le recensioni? Sì, recensioni. Sono tutte positive, dobbiamo dirlo. Sì, parte un paio. Ma va bene, no? Ma ci vogliono. Ma anzi, ci vogliono anche io, spero che positive. Ne esca al più presto una proprio brutta. Ecco, perché non c'è ancora. Effettivamente non è ancora arrivata. Se no me la scrivo io. Scrivita e poi la lanci. Chiaramente. No, è ancora arrivata quella brutta. E niente, sul mio sito appunto si possono ascoltare dei brani. Ci sono recensioni, interviste, i contatti. A breve anche le ricette. A breve lì? Le ricette. Le ricette. Mi piace cucinare. Ah, bene, bene. Poi appunto le altre cose che faccio oltre alla musica, disegno, fotografia. Ricordiamo che il grafico sei stato te di questo disco. Sì, io insieme a Dario Prodan. Il progetto come è nato, come si è sviluppato? Non saprei. Ti è dato tutto così? Sì, dovevo fare una bella cosa e l'abbiamo fatta. Scartato un po' di copertine, scartato un po' di foto, poi scelto quelle giuste. Quindi sei anche fotografo del progetto, praticamente. Sì, sì. Grafico e fotografo, chiaramente. Quindi tutto fatto in casa, per modo di dire, fatto da te, chiaramente, con la produzione artistica di Giancarlo Onorato e il missaggio fatto negli Stati Uniti. Il mastering. Un bel mixaggio, come abbiamo detto. Il mixaggio l'abbiamo fatto a Milano con Matteo Sandri. E poi ricordiamo anche quello degli arti e mestieri. Beppe Crovella. Esattamente, sempre, che ha partecipato. Sempre presente, visto che abbiamo fatto nei suoi studi. L'uomo della canottiera, mi dicevi. No, quello è Furio Chirico. Ah, quello della canottiera. Mannaggia, adesso Furio Chirico è anche grosso, adesso sente questa cosa. Cosa parla male di me? Vabbè, devo tornare a Torino, mi rischio e pericolo. Esattamente. E Crovella è il tastierista di arti e mestieri, vero? Crovella. Sì. Mentre l'altro è il batterista. Sono i due membri storici che sono rimasti, sì. Ma hanno fatto ancora dischi adesso? Fanno qualcosa? Sì, sta uscendo un disco nuovo, mi pare. Ah, una bella discografia, circa 7-8 pezzi, 7-8 album. Non saprei quanti sono in precisione. Ne hanno fatti parecchi. Sì, sì. 8 sicuramente. Benissimo. Sicuramente l'ho usato un po' a caso. Ecco. Insomma, ne hanno fatti, insomma. Ok, 23:55, abbiamo finito questa cavalcata positiva, secondo me. Sull'ultimo disco, non soltanto l'ultimo disco, abbiamo citato anche l'EP famoso, un pezzo mi pare che tu abbia fatto sentire, vero? Di 11 pezzi che citerai ancora nei concerti, un pezzo nuovo, un pezzo del vecchio disco, lo produrrai. Sì, poi a breve sarà in download sul mio sito, si potrà trovare, allora. Gratuito, sì, devo remixare delle cose che non mi piacevano, e poi farò una piccola ristampa, siccome me l'hanno chiesto un po' di persone. Cioè, la prima ristampa è andata bene tutto quanto? Bene, no. Ma insomma, è andata. No, ma non avevo intenzione di promuoverlo, quello l'avevo fatto più per me. Che poi appunto adesso c'è rinnovato interesse, va bene. E questo è molto positivo. Dove l'erba è alta, ricordiamo il titolo dell'album, copertina bellissima, disco a mio parere molto bello, molto interessante. E grazie a Davide Tosches che è venuto qua da Torino, da grazie Piemonte, non da Torino. È venuto a suonare, una cosa molto positiva. Grazie a Michele Tosoni in regia, grazie a tutto lo staff che abbiamo citato in apertura. Prossima settimana abbiamo i Plan de Fuga, lo sai Michele? Su un gruppo di Brescia. No, ti dovevo avvertire che i Plan de Fuga. Lo so. Buonanotte a tutti e grazie. Davide, con cosa concludiamo? Concludiamo con, se ce la facciamo. Ma ce la facciamo sicuramente, qui facciamo sempre tutto. Bene, allora devo sparare un paio di... No, un minuto, dai. Dai, dai. Sempre la canzone dell'autostrada dal disco vecchio. Benissimo. Ok. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Costante nel silenzio dei giorni, forse il tempo che passa, forse il tempo che manca, era stelle distanti, era stelle distanti, e ogni istante un diamante. Scorre lungo luci di un'autostrada fra pensieri di morte, ma non è la vita, è il tempo che muore stanotte, era stelle distanti, era stelle distanti. Stelle distanti, stelle distanti, brillano nei tuoi occhi mentre guardi lontano, brillano nei tuoi occhi mentre guardi lontano, l'onda del rock.